La storia e la memoria di Dino Pesole. Quali relazioni intercorrono tra la musica nelle sue molteplici espressioni e la sfera politica? Che ruolo ebbe la musica negli anni che precedettero e seguirono l'Unità d'Italia? Se la musica, scrive Lorenzo Santoro nel libro Musica e politica nell'Italia unita, dall'Illuminismo alla Repubblica dei partiti, pubblicato da Marsilio, è sempre stata sinonimo di socialità, nel Novecento si è anche accompagnata alla straordinaria esplosione della modernità tecnologica, grazie alla quale è diventata metafora di cambiamento, parte rilevante e significativa della vita quotidiana. Ne parliamo questa sera proprio con l'autore del libro, Lorenzo Santoro, che è dottore in ricerca in storia contemporanea, che è in studio qui con noi. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, partiamo da uno dei padri dell'Unità d'Italia, Giuseppe Mazzini. Mazzini non aveva certo trascurato la cultura musicale nel suo approccio alla nazione e nel suo sforzo di organizzazione e di lotta nazionale. Nonostante le profonde differenze e le polemiche che lo divisero da Luigi Angeloni, anche il patriota genovese nutrì un interesse per la musica in quanto arte fondamentale nella sua personale formazione culturale e nell'originale declinazione del romanticismo che gli propose. Del resto, Mazzini suonava la chitarra e organizzò nell'esilio londinese frequenti concerti di artisti italiani. Come esempio della forza e dell'attualità della musica, Mazzini indicava l'opera di Donizetti e precisamente il duetto tra Faliero e Israelo Bertucci nel Martin Faliero, per la sua capacità di sublimare i sentimenti e le sensazioni dei giovani patrioti che considerava così importanti nel suo progetto rivoluzionario. Non si trattò di un interesse privato. La declinazione di spunti di una teoria estetica musicale, l'attività organizzativa e cospirativa e un'adeguata concezione dell'arte erano per Mazzini un tutt'uno. Dunque, dottor Santoro, musica, cultura e politica marciano di pari passo. Sì, esattamente. No, specialmente in Mazzini questo è molto evidente. L'idea stessa del coro ricorda gli sforzi teorici che Mazzini fece riguardo la democrazia. È molto presente questa idea del controllo delle passioni. Cioè, le passioni esistono, l'arte musicale è una maniera per renderle vive e presenti nella vita quotidiana, diciamo, dei patrioti, ma vanno anche controllate e sapute esprimere al momento giusto per meritare, no, la conquista della nazione, dell'unità, per effettuare una vera trasformazione democratica del popolo italiano. Certo, quindi dunque possiamo dire che per i nostri patrioti del Risorgimento la musica si accompagnò alla passione politica, alla tensione ideale, quindi anche all'attività cospirativa nel caso di Mazzini. Mazzini sì, aveva un grandissimo interesse, ma poi criticava aspramente chi non seguiva i suoi dettami estetici, come Paganini che suonava alla corte di Vienna. Però, insomma, bisogna un po', se posso, insisto anche sul fatto che secondo me è Goffredo Mameli l'uomo che veramente, con le sue composizioni, col suo impegno personale, esprime un'idea nuova di musica e di politica, in quanto è l'idea proprio dei patrioti che combattono, cioè nella vita quotidiana del patriota nella Repubblica Romana 1849, si scrive e si canta insieme, si improvvisa insieme. La leggenda dice che in punto di morte Mameli improvvisava questi versi poetici che però hanno a che fare con la musica, che vengono cantati insieme prima della battaglia. Quindi c'è questo rapporto ambivalente tra formalizzazione, scrittura, controllo delle passioni, espressione delle passioni, che è un po' tipico della modernità politica italiana, che penso che sia molto originale, molto interessante, anche in contesto non solo italiano, diciamo. Ecco, in un altro capitolo del libro, e qui facciamo un salto anche temporale, cronologico, si affronta in particolare il tema del rapporto tra musica, politica e masse nel Partito Comunista. Ascoltiamo insieme questo passaggio del libro. La pubblicazione dei Quaderni del carcere e delle Lettere di Gramsci nella Silloge operata da Togliatti fu una complessa operazione culturale, la quale non fece che confermare il tono e i caratteri della politica di massa intrapresa da Togliatti. Per quanto riguarda la musica, nelle lettere era evidente la condanna del jazz come prodotto culturale esotico e alieno dal contesto europeo, giunto in Europa grazie alla spinta della moda parigina, e che quindi era ormai privo di qualsiasi carattere di classe. Nei suoi appunti, Gramsci riconosceva al melodramma l'unica forza culturale pienamente nazionale, a differenza della letteratura. Era però convinto che il successo di Verdi e del genere musicale operistico avesse prodotto una grave alterazione della cultura propria delle classi subalterne, che egli aveva chiamato concezione melodrammatica della vita. E allora da Gramsci a Togliatti la musica, stante a quello che lei scrive, si fa in qualche modo strumento dell'ideologia politica. C'è questo passaggio straordinario, interessantissimo, penso per ogni storico, il passaggio dalla teoria di un Gramsci che scrive nelle carceri fasciste alla pratica di un Togliatti che ha visto la potenza del regime totalitario fascista italiano e che quindi e ha visto naturalmente anche quello staliniano all'opera. Quindi una volta ritornato in Italia, Togliatti mette in pratica ciò che ha compreso, la necessità di unire l'ideologia all'organizzazione. E tutto ciò lo spinge a mettere su il Partito Nuovo, un partito che quindi non solo ha una cultura di riferimento molto precisa, molto forte, ma poi è costretto ad avere rapporti molto stretti con la società, in tutte le sue angolazioni, tutte le sue sfaccettature. Quindi ho cercato di mettere in evidenza una cosa che non penso che tutti gli studiosi abbiano insistito a sufficienza, quanto sia sbagliato insistere solo sull'organizzazione o solo sulla cultura politica, ma quanto ci sia appunto questo equilibrio per cui mano a mano che la società cambia in maniera quasi mimetica, il Partito Comunista è costretto a inseguire la cultura delle masse. Uh-huh. Sanremo, il rock all'inizio sono giudizi molto negativi, però il partito è costretto nelle feste dell'unità di invitare Nilla Pizzi o chi per lei, suscitando furibondi dibattiti, poi insomma si arriva lentamente a una certa comprensione anche delle dinamiche dell'industria discografica. Il problema fondamentale nel rapporto con la musica moderna era il disco. Con la musica classica naturalmente era vista in questa doppia sfaccettatura del il passato borghese o comunque l'idea, no, che il miglior marxismo è erede della cultura della migliore cultura borghese, quindi deve avere qualche rapporto anche con la musica classica. Invece poi si passa in Italia negli anni 70, nell'esplosione straordinaria degli anni 70, questo costante inseguimento del PC nella cultura giovanile, addirittura a enfatizzare il free jazz, la musica d'avanguardia di un certo genere. Questo è un punto interessante, perché si parte dalle dure critiche di Gramsci e poi si approda alle forme più sofisticate del jazz moderno, quindi in qualche modo anche il Partito Comunista si adegua allo spirito del tempo, se vogliamo dire. Sì, sì, insegue, c'è questo famoso concerto del Palasport del 75 in cui Luigi Nono, altro personaggio interessantissimo, che cerca di coniugare questi aspetti così diversi, così apparentemente incompatibili. Il partito non capisce che non si può far sentire un disco di musica contemporanea alle masse che inneggiano al Cile, agli Intillimani, sono tutte prese agli Intillimani, e quindi si crea una parapiglia interessantissima, ci sono delle lettere di Giorgio Napolitano, che dimostrano come il partito non avesse compreso che la musica fosse una forma di religiosità politica in qualche modo. E quindi da una parte insegue l'associazionismo, il movimentismo, dall'altra cerca naturalmente di, in ogni festival dell'unità, di approfondire questi aspetti, di lavorare nell'organizzazione dei concerti. E questo, devo dire, un'altra peculiarità italiana che merita attenzione, insomma. Anche perché poi ci ha lasciato, cioè, un clima culturale particolarissimo, insomma, c'era in Italia all'epoca, ci ha lasciato anche ottima musica, un'ottima cultura musicale, ricerca, penso a Gaslini, a Mario Schiano. Certo, poi siamo passati, parlavamo appunto del Risorgimento, siamo arrivati al Partito Comunista e quindi al secondo dopoguerra, però abbiamo trascurato il lungo ventennio del fascismo in cui anche in quel caso, come dire, la musica è stata piegata alle esigenze politiche e usata come strumento di propaganda, se vogliamo, in qualche modo. Certo, no, in quel caso anche l'operazione è stata forse anche ancora più sofisticata, in quanto si sovrappongono una cultura pienamente fascista con una cultura in qualche modo borghese, una cultura per i giovani. C'è una capacità del fascismo di comprendere la società, la complessità della società, straordinaria, per cui il jazz viene in qualche modo deriso dopo le leggi razziali, però comunque prima c'ha un suo ruolo nella società, c'ha un suo posto nella società, è molto più complesso di quanto si possa immaginare il rapporto con le altre musiche, comunque una musica emblema della modernità come il jazz. E poi insomma il fascismo si appropria di tutto ciò che è nazionale, quindi può inventare qualsiasi forma di declinazione, se c'è un Garibaldi fascista perché non ci può essere un Verdi fascista. Mm-hmm. Però tutti questi fenomeni appunto vanno compresi nel loro rapporto complesso con la società. Certo, poi comunque vanno storicizzati, perché altrimenti non si riesce a cogliere qual è l'elemento che lega lo sviluppo della cultura musicale alle tensioni, come dire, politiche del momento, perché se si separano i due aspetti si rischia di fare confusione. Questa è un po' anche la sintesi che vedo. C'è un'effervescenza, una spontaneità della società nella modernità che la storia deve raccogliere. Non è il problema di enfatizzare le fonti orali, ma di capire, come ho cercato di fare, insomma, modestamente, il fatto che ogni intellettuale o uomo politico abbia una strategia nei confronti della musica, ogni estetica sia una strategia rivolta ad alcuni ceti sociali, e che indica un futuro naturalmente per la nazione. Dunque, tutti spunti di grande interesse, quindi, che rendono la lettura di questo bel libro di Lorenzo Santoro, Musica e politica nell'Italia unita, dall'illuminismo alla Repubblica dei partiti, senz'altro interessante. Grazie e buonasera. Grazie a voi.